Penso alla gente, la gente disperata nella campagna. Penso al mondo, mondo che ignora tutti voi. Voi poveri lavoratori in lotta per vivere. Giorni senza ridere e con tanta fede in Dio. Svegli presto e poche ore per dormire. Niente riposo e poca libertà. Lunghi pianti di dolore per vivere. Cercate una svolta per risalire. La libertà, un difficile traguardo, sempre più presente, oggi la libertà, un sogno da portare avanti, impossibile per voi, per voi, impossibile per voi. Non si può avere una vita più decorosa alla ricerca di qualcosa per vivere, poveri lavoratori, in fabbrica a tribolare ore di stanchezza e di sonno, senza felicità. Poco tempo per stare in famiglia, a crescere e mostrare la via. Una moglie e tanti figli da sfamare. Lontananza e sconforto per pochi soldi. Cercate una svolta per risalire. La libertà, un difficile traguardo, sempre più presente, oggi la libertà, un sogno da portare avanti, impossibile per voi, impossibile.